Siamo in collegamento whatsappico con Sara Corona, curatrice, art dealer, nonché corrispondente artistica per vari magazine e anche persona informata sui fatti, perché appunto Sara sta a New York e mi dicono che è appena riaperta la prima fiera d'arte contemporanea in presenza, Freeze New York, che tu hai visitato. Raccontaci, Sara, com'è stato ritornare in una fiera dopo un anno e cosa c'era di interessante? Ciao Stefano, ciao Bologna, grazie per aver chiamato, sono onorata di contribuire alla tua puntata. E sì, Freeze ha riaperto dopo di aver saltato ovviamente l'edizione l'anno scorso, e è stato ovviamente per me soprattutto molto bello rientrare in una fiera d'arte. La fiera ha anche aperto in una nuova location, perché si sono spostati da Randall's Island al centro qui a Manhattan. In questo posto si chiama The Shed, che è un museo / spazio per eventi, quindi è stato molto più facile accedere alla fiera, alla sede, perché si accedeva direttamente dalla High Line. E la fiera di per sé, devo dire, è stata molto carina. Sicuramente questo nuovo spazio espositivo è molto più adatto che la grande tenda sull'isola, però come uno ci si poteva aspettare era anche abbastanza vuota. Penso che è dovuto al fatto che il sistema per accedere era davvero complicato, i biglietti dovevano essere acquistati con molto anticipo, erano solo per un determinato orario, in un determinato giorno, si potevano cambiare, bisognava fare un COVID test entro 24 ore prima, che doveva essere consegnato tramite il loro sito in collegamento col numero del biglietto. Insomma, quindi non era tanto facile accedere di per sé, però penso che questo era anche l'unico metodo che potevano adottare. Quindi la fiera era vuota, c'erano pochissimi visitatori, insomma, quando sono stata io. È anche vero che vedere una fiera con meno persone è molto più piacevole, perché uno ha tempo veramente vedere gli stand, le opere d'arte con calma. Una cosa che ho notato, che ho trovato in realtà quasi una cosa democratica, è che quasi tutti gli stand avevano più o meno la stessa superficie d'esposizione, quindi che era una galleria più piccola o Gagosian, la misura degli stand erano più o meno gli stessi, e questo secondo me è stata una cosa interessante. Io personalmente non ho visto grandi novità, forse perché comunque vivo a New York e vedo le gallerie con regolarità. Questo per me è stato un po' una delusione, perché giustamente quando vado in una fiera ho un po' questa aspettativa di essere anche sorpresa con qualche novità. Bisogna anche dire che l'80% degli espositori erano gallerie di New York, pochissimi da altre città, pochissime dall'Europa, quindi è una conseguenza un po' quasi ovvia. Altra cosa interessante è che le gallerie che non hanno partecipato hanno colto l'occasione per organizzare una specie di gallery weekend, e quindi in tutta la città c'erano delle mostre nuove da vedere nelle gallerie, nei vari quartieri. Io sono andata a vedere le gallerie a Tribeca, sono andata a vedere le gallerie nel Lower East Side, e devo dire che tutte le gallerie si sono impegnate molto a installare mostre nuove con artisti nuovi o comunque un programma, diciamo, un po' più sperimentale. Certamente aiutato anche il fatto che qui piano piano si sta avvicinando la primavera, siamo un po' in ritardo quest'anno, e quindi era anche un bel weekend per stare in giro, stare all'aperto e insomma camminare da una galleria all'altra, magari fermarsi in between per un caffè o un aperitivo. E quindi direi, tutto sommato, è stato veramente un weekend molto rinfrescante dopo, insomma, tutti questi mesi che siamo stati al chiuso. Ottimo, e dunque anche New York come Bologna ha avuto appunto un weekend d'arte, perché è un po' simile a quello che abbiamo vissuto noi qui a Bologna, dove c'è stata Art City, con una differenza non da poco naturalmente, soprattutto per il nostro amico Simone Menegoi, perché abbiamo avuto Art City senza arte fiera, senza la fiera, mentre invece voi avete avuto le gallerie che riaprivano e anche la prima fiera al mondo, credo, di arte contemporanea che riapriva. E dunque mi chiedevo appunto, sento che un po' di primavera si sente, ma cosa bolle in pentola New York secondo te? Secondo te dove stiamo andando? So che è una domanda difficile, ma dacci qualche anteprima di quello che succederà nella grande mela nei prossimi tempi per il mondo dell'arte. Beh, questa è la domanda del super enalotto, perché ovviamente tutti noi vorremmo sapere cosa succederà. Non lo so per certo, sicuramente c'è un po' aria di riapertura che si nota, perché semplicemente ci sono molte più persone per strada e le gallerie sono aperte, i musei sono aperti, le mostre sono accessibili o su prenotazione, oppure insomma facendo un po' di fila fuori se c'è troppa gente dentro. Io credo che la situazione si rilasserà veramente solo dopo l'estate. Si sa che anche New York, il mondo dell'arte di New York d'estate, soprattutto luglio ed agosto, si sposta tutto sugli Hamptons, dove tra l'altro tante gallerie hanno aperto delle sedi secondarie l'anno scorso scappando da Manhattan. E io penso che insomma anche quest'estate qui in centro a New York la situazione sia ancora abbastanza calma. Poi settembre, anche con la riapertura di tutto il resto, sicuramente sarà e avremo più informazioni su cosa succederà. Io penso che comunque sarà ancora un anno un po' calmo, perché insomma tanta gente, soprattutto la gente molto facoltosa, semplicemente se n'è andata da Manhattan, perché anche potevano comprarsi case altrove o le avevano già, e questa cosa ancora si sente. Ciò non esclude che gli eventi esclusivi vengano ancora organizzati, perché sono sempre stati eventi privati, continueranno a essere eventi privati, semplicemente non si sente più di tanto. Non so se questo dà risposta alla domanda, certamente possiamo anche risentirci più avanti, insomma vi posso mandare un po' di update se ne avete voglia, e vediamo un po' come si evolve tutta la situazione. Beh, io devo dire che l'idea che tutti i ricconi se ne vadano da Manhattan un po' mi fa anche piacere, perché come sai, quando io ho vissuto a New York ero tutt'altro che in quel giro, per cui insomma mi farebbe piacere se tornassero, non dico i poveri, ma almeno gli artisti squattrinati, che possono magari far ripartire qualche cosa un po' entusiasmante così. No, io ti ringrazio tantissimo e ti faccio ti chiedo una promessa: quando vedrai una mostra particolare o scoprirai un artista entusiasmante, mandaci un vocale, raccontacelo, perché naturalmente Coxo Spaziale è molto contento di avere una corrispondente d'eccezione come te, insomma. Beh, ti do ragione, devo dire che con un almeno 30% o 40% di immobiliare commerciale vuoto, si stanno vedendo un sacco di piccole iniziative culturali che stanno nascendo, quindi vediamo cosa succederà. Sicuramente c'è davvero un'aria molto frizzante. Grazie a te per avermi chiamata e certamente rimaniamo in contatto. Io quando vedrò qualcosa che è notevole da segnalare ti chiamerò, insomma ti mando un messaggio e ci possiamo risentire. Grazie e buona giornata. Fantastica la Sara Corona da Manhattan. Ma veramente, eh? Io sono veramente ammirata dalla pronuncia, da questa R. Ma ha detto, ricordami, mi è sfuggito, ha detto freeze? Ha detto freeze. Ah, si è un po' slittato. Perché, peccato. Sì, no, però, perché Sara è un misto germanico e italiano, per cui ha questa pronuncia fantastica. Dovremmo fare le hit delle voci femminili scelte da W. Pasquini, perché... Sì, a proposito, indovina cosa ti faccio sentire, intanto che chiamiamo la nostra voce femminile number one. Esatto, sei pronta? Tanto per cambiare. Non parte niente. Con calma, sai com'è. Indovina chi è? Jennifer Owens Young. Jenny Owen Young. Non sbagliamo, che sennò si offende. Ah, pardon. Stacks in the attic, video games. Shark in a jar on the sill. Breathing formaldehyde. Ooh, ooh. Evenings we spent in July, pointing our telescope up to the sky, and when we'd say our prayers every night, we'd ask for someone to come down from the take us away when he'd come home full to the brim. You know what I know, there's no talking to him. Ooh, Dungeons and Dragons. The game, you're okay. Long swords and spell casting keeps all the bad away. And the monsters look how monsters do. Not like neighborhood kids with their hands full of rocks for you. And not like the grown-ups who should protecting you. When he come home, fall to the brim. You know what I know, there's no talking to him. Ooh, oh no, go hide yourself. You know there'll be hell to pay. You're the one paying, but soon as you're Non esagero, vado bene così? Ci siamo? Chi c'è? Chi c'è al telefono qua? C'è qualcuno che si complimenta per come alzi con garbo il volume dei microfoni. Complimenti, caro Pasc. Allora, l'ascoltatore attento avrà riconosciuto di chi si tratta. L'ascoltatore dei classici del Coxo, perché ormai sono una cariatide del Coxo. Io sono, mi presento, sono Fedra C. Boscaro. Un evergreen, io direi, altro che cariatide. Evergreen cariatidesca del Coxo, una coxonauta di vecchia data, nonché co-conduttrice coxica all'occorrenza, però sono qui in una veste un po' anomala perché sono una super mega ospitessa, dico bene Chiara? Sei un'ospitessa perché sei winner. Sì, è vero, per fare questo grande annuncio. And the winner is Fedra. Che cosa hai vinto, Fedra? No, non sono io, però vabbè, insomma, a vincere è stato un nuovissimo vestiario che questo programma di ricerca che io ho ideato nel 2007 e che è articolato in tre capitoli e che deve concludersi nel 2021 con il passaggio della casa di questo povero Asterione, che è il Minotauro di Creta, secondo il racconto di Borges, nel suo trasloco nel digitale. E quindi a settembre il primo degli spettacoli interamente ideati per la rete ha trovato ho trovato l'abbraccio del Tanzoi Film del Tanzoi Danza Film Festival. E quindi a settembre debutteremo con Asterione nel web. Ma che meraviglia, Fedra! Sono sconvolta. Tra l'altro, lo sai che sono una follower del bestiario della primissima ora? Perché io mi ricordo qui a Bologna, forse era proprio il 2007, in un posto che ora non saprei bene raccontare, però c'eri tu e addosso ti venivano proiettate queste immagini. Mia cara, quello è il secondo capitolo, è il capitolo dedicato al labirinto manierista, come questo ultimo è dedicato al labirinto a rizoma. E quello che hai visto tu erano le performance degli appunti dispari, in cui io avevo chiesto a diversi artisti visivi, tra i quali Karin Andersen, Sonia Marcolin, Tommaso Rosio, Nicole Riefolo, di rifarmi i connotati secondo la loro poetica. E quindi io trasformavo per questi 15 minuti di performance, e quello lì mi sa che l'ha visto anche Pasquini una volta. Sì, mi sa che l'ho visto anch'io una volta, non so se era quella volta, però l'ho visto quella volta al cinema. Tu l'hai visto al cinema? Io l'ho visto al cinema. Io non ero al cinema, ero in un... però non riesco a ricordare esattamente, era un posto dove non sono più stata, forse che non c'è neanche più, sai quei posti che a Bologna aprono e poi richiudono, mi verrebbe da dire l'Atelier, sì, ma non c'era ancora all'epoca, quindi è impossibile. E comunque mi sa che quello lì era tipo il 2000, perché era nel secondo capitolo, qua mi incasino un po' con le date, comunque. Ma anziché rivangare, perché non parliamo di quello che stai facendo, cioè è partita la primavera. Esatto, l'evergreen, diventa un disastro, esatto. Parliamo di... così che tiro una graffiata sulla regia come facevo ai tempi, ti ricordi Stefano? Certo. Per entrare nel mondo, entriamoci sonoramente, ascoltiamo uno di quei branini che ti ho mandato, perché lo stiamo ascoltando in sottofondo, ma tu non lo sai perché non senti il sottofondo, giusto? È quello da 5 minuti? No, stiamo ascoltando Pelle di pesca muta, te lo metto un po' più alto così, ma dimmi sì, tu. Perché se ce lo ascoltiamo per questi 2 minuti, poi ci facciamo le pubblicità e poi riprendo il discorso. Va bene, quale vuoi? Che dici? Sì. La palla di pesca va benissimo. Ok. Pelle di pesca. Perfetto, allora facciamo poi così. Poi mi dicono anche chi la fa. Benissimo, allora lo ascoltiamo e poi andiamo in pubblicità. Yeah. Che famo stasera? Sky on Netflix. Eccoci qua, siamo tornati. Sono che meravigliose le pubblicità delle 7:30, come mi scaldano il cuore. No, ma infatti la mia domanda è: ma quando torni? Esatto, anche la mia, perché io devo dire a Pasquini che se la puntata rimane a lunedì, l'anno prossimo Non lo so se ce la faccio, Fedra. Dopo tutti questi anni che abbiamo lottato per averla, infatti. Non c'ero in questa, non ho partecipato a questa lotta, se no avrei detto un altro giorno. Va bene, allora andiamo per tappe. Sicuramente entro settembre mi sa che non torno, perché sono presa a fare sto lavoro che è tutto online e quindi con ordine. Io sono qui come ospite in questa puntata della Radice Quadrata di qualche cosa. E allora dici perché? Sì, perché lo spettacolo è Le stanze di Asterione, tradotto in inglese Asterion's Rooms, Dancing to the Web Maze, ha vinto la sezione Performance Live del Festival Tanzoi di Amburgo. E quindi a settembre debutterò in linea con quanto pronosticato dal piano programmatico del nuovissimo bestiario, che vede la sua conclusione proprio quest'anno, dopo 14 anni di percorso e di ricerca sui temi del Minotauro e del Labirinto. In questa traslazione nel web vede il concludersi felice del programma di ricerca che è iniziato nel 2007 di cui insomma si approfondirà nei link che da domani saranno pubblicati su www.coxospaziale.blogspot.com. Bravissima. Certo, ovviamente. Ma io volevo sapere una cosa però, ma tu però ci sei fisicamente o sei solo un'entità digitale? No. Allora, per questo lavoro io sono ideatrice e regista, poi ovviamente supervisionerò anche tutte le fasi produttive, la regia digitale e quant'altro, ma questo spettacolo avrà luogo in una piattaforma che stiamo realizzando ad hoc in collaborazione con la cooperativa di programmatori Incode di Bologna, quindi non mi è bastato un programmatore, tutta la cooperativa, per realizzare questa piattaforma per dar vita ad una modalità di far teatro tramite le piattaforme di video chat che presupponga una interazione al 100% del pubblico, nel senso che proprio anche il pubblico è dentro la scena. Pazzesca sta cosa. Non so se mi sono spiegata, perché magari io ci penso da tanto tempo, da novembre che metto a punto sto progetto e questa anche modalità di traslazione dei codici performativi nel web e quindi stiamo partendo proprio con questo spettacolo Asterion's Rooms a settembre, inaugurerà la prima sezione della piattaforma che porterà online in versione interattiva il personaggio di Asterione su cui è centrato il percorso di ricerca nel nuovissimo bestiario. Anche perché a settembre saremo già stanchi di essere offline e fuori, no? Vorremmo ritornare davanti a un computer, capito? Per cui il tempismo è perfetto, è secondo me. Permettetemi di mettere lì una chiosetta, nel senso a voglia voler ritornare online senza pixel a filtrarci, però devo dire che le piattaforme di comunicazione offrono un grado di presenza che crea proprio, dà la possibilità di sperimentare veramente un grado di integrazione e interazione che mai nessun'altra forma di teatro classico o di performance classico abbia mai potuto mettere in pratica. E realizza quelli che, se vogliamo, sono un pochino gli ideali delle ricerche anni 60, in cui si voleva la partecipazione orizzontale diretta. Ci puoi fare un esempio concreto, cioè, ma piccolino, senza spoilerare troppo? Cioè, uno si collega, cioè cosa... L'ideale spettatore come entra in tutto ciò? L'ideale spettatore in questo modo prenota l'accesso compilando un form, perché ovviamente nel momento in cui sarà dentro lo spettacolo insomma sono anche spettacoli fatti per un pubblico limitato, perché diciamo che i ruoli degli attori sono distribuiti all'interno delle finestre della videochat, in alcuni sono attori, in altri sono pubblico, però l'idea è che chi arriva sia più o meno un incontro che quindi nel senso lo spettatore non sa tra i presenti chi sia o chi non sia attore, e l'alchimia della drammaturgia stiamo collaborando con un drammaturgo che è veramente, però diciamo questo qui è uno è lo spettacolo che andrà in scena successivamente. Cioè, diciamo, uno entra in questa Meet come se si entrasse in una stanza di Meet e poi gli succedono delle cose. Esatto, la questione è che ogni finestra di chat è intesa come una scena, e alla fine di questa scena l'utente esterno, il pubblico utente esterno, il non attore, potrà scegliere come continuare e in quale altra stanza continuare. Quindi c'è un'interazione nella scelta del percorso narrativo e un'interazione proprio all'interno della scena, perché gli attori avranno anche il compito di stimolare e di riarrangiare la loro interpretazione, la loro narrazione in base alle interazioni che vengono tirate fuori dagli utenti, e che sarebbero il pubblico partecipante. Però in questo caso il lavoro che ha vinto ad Amburgo e che sarà in festival a settembre, col quale lanceremo una prima release, è solo fondato su un utilizzo della piattaforma come composizione di finestre. Avete presente la classica piattaforma di chat room, che ci sono le quattro finestre, in ciascuna finestra ci sei tu, ci sono io, c'è il passaggio del cozzo. Per un attimo non c'era più nessuno, ma è tornata? Ecco, per un attimo non c'era più nessuno, e nell'attimo successivo invece le persone che sono nella chat compongono una coreografia di forme sfruttando proprio questa aderenza tra i profili delle finestre. Capito come? Sì, più o meno. Diciamo, mi sono fatta un'idea sufficientemente vaga da essere ancora curiosa nei confronti di tutta la performance. E quindi... Perfetto, allora a questo punto io direi, per approfondire meglio la questione coreutica sull'uso appunto della migrazione della danza nelle piattaforme per video messaggistica web, io passerei la palla a Caterina Mocciola, che mi sta accompagnando da novembre a promuovere e a configurare i vari set performativi che andranno in scena su questa piattaforma, di cui appunto Experience Room è il primo, e che si occuperà anche di questa coreografia che migra tra una finestra e l'altra. Però prima magari potremmo ascoltare un altro brano prodotto da Alessandro Gallerani e Stefano Passini. Che non sono io. Che Passini, senza esatto. Cura, senza Passini, dubbio. Non Pasquini. Vabbè, questi due Stefani mi hanno fregato da tanti anni, sempre questo. Però questo è Stefano Passini, che stanno cominciando a buttare giù le prime sonorità che andranno ad essere elaborate nel corso dell'estate, in cui andremo in fase di produzione per giungere a settembre pronti e coccicamente abili. Bene, allora andiamo ad ascoltare. Si chiama Prova 2.2 M. Ecco, quella è proprio farina del sacco del Passini, quasi tuo omonimo. E poi magari mi scrivete un messaggino e mi dite se ti ha capito qualcosa di quello che ho detto. Ah, va bene, te lo scriviamo più tardi. Grazie Fedra. Allora, ciao Fedra, ti aspettiamo. Torna a settembre. C'era anche un film che si chiamava così. Torna a settembre. Insomma, torna quando vuoi, siamo qua che ti aspettiamo. A braccia aperte. Grazie, anche voi, venite da me. Sarebbe bello. Ma sì, potremmo andare in vacanza. Ciao cara, a presto. Montano. Ciao. Ciao. D'accordo. Grazie. A te. Ciao, Fedra. andiamo diretti in diretta con Tanto. Caterina, sei già in diretta, sei contenta? Fantastico. Senza mi domandavo come sarebbe successo. Esatto, è successo così, che ti abbiamo buttato direttamente in diretta. Hai ascoltato quello che ha detto Feda oppure sei così d'amblè, non sai di che cosa abbiamo parlato? No, ho una vaga idea perché ero connesso sulla diretta sbagliata. Mi sono confusa sul vostro sito mentre sono in macchina lontana da casa perché ho problemi di connessione in internet. E per cui stavi ascoltando Radio Città del Capo? Impossibile perché ha chiuso. Non c'è più, stava ascoltando Radio 3. Radio 3, non lo so. Comunque Federa ci ha raccontato un po' di quello che succederà in questo spettacolo. Devo dire che io personalmente non ho capito quasi niente, però ho capito che è online. E ho capito che tu sei la coreografa, giusto? Esattamente. Quindi allora spiegaci meglio perché no, abbiamo capito che c'è questa questione di stanze, che tu entri in una meet, tu spettatore ipotetico entri in una meet, succedono delle cose che sono in qualche modo orchestrate da te. Sì, saranno orchestrate da me e anche da Fedro ovviamente, in collaborazione con il nostro drammaturgo, quindi c'è tutto un team che da remoto lavora da mesi e l'idea fondamentalmente di base è quella di creare questo spazio digitale, nell'ambiente digitale, dove corpi diversi che si trovano in punti, spazi e con scenografie diverse in alcuni momenti, che si possano muovere seguendo una coreografia pensata per accumulazione, diventando lo stesso movimento e lasciando che queste forme morfologiche strane si riconfigurino attraverso le varie finestre creando un'unica danza. Ma queste forme morfologiche sono delle forme umane o sintetiche? No, sono tutte quante create dall'essere umano, quindi grazie all'utilizzo del digitale possiamo andare chiamiamolo mostro, comunque un corpo diverso da quello che può essere un corpo umano, quindi senza che ci sia bisogno di effetti o di effetti visivi, chiamiamoli così, ma viene proprio creato attraverso l'utilizzo di queste finestre e da una coreografia che è stata creata appositamente, che si accumula, quindi da una diventano due finestre, da due diventano quattro finestre e possiamo giocare con parti del corpo, pezzi di viso, di volto che si fondono, si migrano da una finestra all'altra e le due finestre sono a cavallo l'una dell'altra e quindi possono creare queste forme che sono il risultato della collaborazione di più corpi. Stavo pensando chissà come sarebbero contenti Braque e Picasso di una cosa del infatti, genere. No, infatti, tecnicamente mi sembra complicatissima sta cosa, o sbaglio? Beh, non è così semplice, bisogna insomma capire un attimino quella che è la tecnica che sta alle spalle, no? Per poter decostruire e ricostruire dei corpi bisogna avere un attimino di praticità con quella che è la restituzione dell'immagine che viene data dalla videocamera, che si utilizza una videocamera di computer ed eventualmente in aggiunta anche quella di un telefonino e si formano queste forme, scusate la ripetizione, attraverso i tagli dell'inquadratura di queste video chat live e vengono a ricomporre forme antropomorfe. Quindi sì, l'idea di Picasso è sicuramente è un buon modo. Mi è venuto in mente, sarà una mia malattia mentale, ma il famoso perverso polimorfo di freudiana memoria, non so, è una cosa un po' tendente al mostruoso che mi sto immaginando adesso, però è mostruoso, ci sta, è un bestiario, quindi... Esatto, quindi i mostri fanno parte di questa cosa, fanno parte della coreografia, fanno parte di quella che è la linea narrativa e sono il nostro minotauro, insomma. Ecco, quindi direi che abbiamo abbastanza inquadrato la questione, ma sì, quindi non sarà però solo il volto, cioè l'inquadratura potrebbe essere anche, non so, di un ginocchio, di un piede, l'immagine potrebbe venire. Esatto. Non è soltanto il volto, ma diverse parti del corpo e su cui stiamo lavorando è fondamentalmente alla disciplina coreutica, senza passare per effetti visivi complessi e difficili, ma dialogando con quello che è di base il videomaking, quindi il danzare per una videocamera, il danzatore diventa il videomaker di se stesso. Ecco, e visto che abbiamo parlato finora del punto di vista un po' dello spettatore, perché dovevo entrare nel mood della cosa, ma invece dal punto di vista del danzatore che preparazione richiede tutto ciò? C'è un training? Sì, allora noi siamo, siccome è un, insomma, c'è un po' di complessità alle spalle, no? Per passare dalla scena classica a quella digitale, abbiamo deciso di creare questo corso di formazione, ovviamente per studiare con i nostri danzatori e con dei danzatori che selezioneremo alla fine del corso di formazione, come funziona questa interazione con la videocamera, perché è tutta una questione di cambi di prospettiva e anche cambi di mentalità. Dal piano degli assi ortogonali, insomma, bisogna capire un attimino la diversità della prospettiva e anche dell'uso dello spazio. Ho capito. Sta cosa del cambio di prospettiva mentale mi intriga abbastanza. C'è una ginnastica mentale che deve fare praticamente il danzatore, deve danzare con la mente, più con la mente che col corpo, forse. Non so. Ma in realtà il danzatore lo fa comunque questa cosa, si tratta di adattare questo cambio di prospettiva, magari non allo spazio fisico, lo si fa già nel movimento, lo si fa in per tanti versi, c'è una parte mentale abbastanza presente nella danza e questa volta lo si fa in relazione con la tecnologia, che è una tecnologia accessibilissima a tutti ovviamente. Infatti questa cosa del fatto che chiunque lo potrebbe fare potenzialmente è molto interessante. E non lo so, Chiara, avevi qualche altra domanda per Caterina? Giusto, come si potrà accedere, quando e da quando? Naturalmente da domani ci sono tutti i link possibili e immaginabili che Fedra ci ha dato su coxospaziale.blogspot.com. Lo hai detto e tu lo farai. Certo, però... Sì, poi comunque sul nuovissimobestiario.it cioè nella parte dedicata ai workshop c'è tutta la spiegazione di quello che stiamo facendo, del concetto che c'è alle spalle. Il seminario, questa formazione sarà divisa in tre moduli, sembra una cosa lunghissima, in realtà è una cosa accessibile anche questa, e la formazione avrà luogo dalla seconda metà di luglio fino alla prima metà di agosto, quindi è un mesetto, anche se in realtà sono questi moduli con giorni alterni, quindi è molto fattibile. Però poi diciamo come spettatore base è da settembre che si potrà accedere. Sì, tra il 3 e il 5 settembre ci sarà la messa in scena live streaming grazie al Tanzoi di Amburgo, e sarà disponibile online in tutto il mondo. Ovviamente noi puntiamo grande e verrà anche trasmessa, mi viene una parola trasmessa ma non è la parola giusta, cosa succede quando si va al cinema e si vede un film, non sono più proiettata, abituata, si proietta di solito, credo, esatto. Non so, una premiere, verrà premierato nella proiezione in un cinema ad Amburgo. Ah, fantastico. Speriamo allora di poterlo avere anche a Bologna, visto che Fedra magari così ritorna anche qua, cominciamo a sentire Cineteca, esatto. che ci dia un qualche schermo per vederlo anche... Per vedere, ma magari in differita, perché visto che Amburgo ha pagato non sarebbe più... anche dopo, anche in seconda visione. In seconda visione, infatti. Sicuramente vi manderemo il link, così anche voi potrete capire quello che stiamo architettando da mesi. Ho capito, fantastico. Benissimo. Noi ti ringraziamo tantissimo, Caterina, e poi naturalmente buon lavoro, in bocca al lupo, cioè cosa si può dire per... In bocca al lupo e anche congratulazioni. Sì, infatti, anche congratulazioni, perché già lavorare con Fedra non è una passeggiata. Questo lo hai detto adesso, no? Dopo che l'hai salutato. No, ragazzi, esatto. Tanto vi dico crepi il lupo, e lavorare con Fedra è un grandissimo piacere, come immagino lo sappiate anche voi. Lo sappiamo, certo, lo sappiamo. Certo. Grazie mille. Va bene, grazie mille anche per l'opportunità di parlare del nostro lavoro. Grazie a te. Grazie Caterina. Ciao, a presto. Buona serata, a te. Ciao. Ciao, ciao. Com'è sta cosa? Bella, ma sai che mi è piaciuta molto, mi ha entusiasmato, mi ha aperto tutto un... Ti è venuta voglia di danzare online? Mi è venuta voglia di danzare online, hai assolutamente. Capito, grande. Sì, sì, sì. No, devo dire ma che... Io sono una fanatica del distanziamento sociale perché sono un po' così. No, infatti ti vedevo un po', visto che sei dovuta venire dalla mia parte della postazione, ti vedevo un po' così titubante, mentre invece c'è gente che non aspetta altro di poter abbracciare e baciare i propri cari e non cari. Pensavo di poter abbracciare e baciare te. Ah, beh, vabbè. No, io ero titubante perché non riuscivo a comprendere tutti i mezzi di cui disponiamo dall'altra parte, e poi soprattutto non ho capito perché questa cosa fantastica non l'abbiamo già fatta prima. Di usare il viva voce di direttamente. Di venire io di là, tu di solito venivi di qua, adesso gli ascoltatori sì, no. non interessa magari moltissimo tutto questo sottofondo tecnico, però cioè, mi è sembrato che abbia funzionato bene. Sì, no, effettivamente devo dire che avere il mixer sotto mano è molto più comodo che dover correre da una parte all'altra. Certo, del mixer. Però ci siamo arrivati al 362 esatto. puntata. Meglio tardi che mai. E adesso mixo tra una musichina tranquilla e un'altra. Senti questa è sempre Ghibli come prima, perché abbiamo è un po' orient, vabbè, sono un po' giapponesi naturalmente, perché adesso abbiamo l'angolo della menzione. E abbiamo una menzione sola che fa sempre parte di Art City. Una monomenzione fa sempre parte di Art City, il che è abbastanza incredibile, perché non ci eravamo accorti che alcune mostre di Art City inaugurano, o meglio non inaugurano, aprono da il 18 maggio. E in questo caso stiamo parlando di Rock the Art di Paola Pivi, mostra personale nella galleria e in altri spazi Paradiso Terrestre. Tu sei mai stata alla galleria Paradiso Terrestre? No, non sono stata alla galleria Paradiso Terrestre, ma mi sono ricordata di una cosa terribile che è successa, ma che non dirò online. Nel Paradiso Terrestre o nella galleria Paradiso Terrestre? No, né l'una né l'altra. Te la racconto fuori onda. Ok, me la racconti fuori onda, per cui non la saprete, a meno che non beh, naturalmente potrete magari su coxospaziale.blogspot.com, oppure mandate un sms al 333 180 94 94, per la prossima puntata. Esatto, e poi in privato vi rispondiamo. Fatto sta che il marchio storico del design italiano Paradiso Terrestre è felice di annunciare la collaborazione con l'artista Paola Pivi e la mostra personale Rock the Art. Paola Pivi realizza in esclusiva per Paradiso Terrestre Let Them Shine Art and Universe, presentati in anteprima all'interno della mostra. Let Them Shine Art è una lampada a parete in edizione limitata, omaggio al garbo dell'artista giapponese Mario Yagi e Baki da setola di Pino Pascali. Hai capito? Universe, io lo sto leggendo per la prima volta, questo è per dire quanto siamo preparati qui. Questo è un classico. Esatto. E Universe invece è un tappeto in edizione limitata ispirato a una sua precedente opera, che sarebbe Untitled del 1998, sua volta realizzato basandosi sull'invito della sua prima personale presso la Galleria Massimo De Carlo a Milano nel 1998. Hai capito? Ho capito. Dunque, questo è a Paradiso Terrestre, inizia il 18, non c'è inaugurazione, per cui ed è dunque aperta dal martedì al sabato dalle 11:19 e in via dei Musei numero 4 al primo piano. Dove è andato qua? Abbiamo anche lo stacco finale. Wow, fantastico. E dopodiché ci dobbiamo salutare perché è finita la trasmissione, però siamo stati 56. Anche bravi. No, cioè, io volevo far notare una cosa, perché intanto questa settimana abbiamo saputo chi è il che cosa interessa moltissimo a tutti gli artisti italiani. Chi è il più bravo? No. Chi è, non lo so. Chi è il prossimo il prossimo curatore della Biennale, lo sappiamo, ma del Padiglione Italia della Biennale di Venezia. E tu avrai senz'altro notato che io ho anticipato questa cosa presentandomi qui come Chiara? Come Chiara Viola. Chiara Viola, e infatti Eugenio Viola è il prossimo curatore del Padiglione Italia. Non è un caso, assolutamente. Tutto fatto apposta. Molto bene, ma tu lo conosci personalmente? Perché no, cioè so che c'è a Bologna c'è un gruppetto di persone che lo conoscono personalmente e che naturalmente aspirano a partecipare al Padiglione Italia della Biennale. No, io non sono tra costoro, io conosco lui non conosce me, credo. Ho seguito alcune cose interessanti che ha fatto quando era al Madre. Magari riusciamo a invitarlo a Coxo Spaziale, chissà. Ci proviamo. Ci riusciremo. Ok, molto bene. E niente, direi che con questo abbiamo detto tutto. No, non che, cioè, voglio dire, chi lo sa chi è Eugenio Viola dei nostri interessati ascoltatori? Beh, adesso alcuni sì. Tutti a googolare, esatto. E lo scopriranno. Andate tutti a googolare Eugenio Viola, che è fra l'altro è il direttore del Mambo, ma del Mambo di Bogotà, del Museo d'Arte Moderna. E anche questo, questo sembrava un po' russo più che sì, come si dice Museo d'Arte Moderna di Bogotà in bogotese? Se mi davi il tempo di cercarlo prima ti attivavo il nostro traduttore. E invece questo era Coxo Spaziale, io ero Stefano W. Pasquini, davanti a me ho la fantastica Chiara Viola e naturalmente saluto e bacio anche la nostra Fedra Boscaro che è intervenuta come ospitessa questa volta e naturalmente la parola d'ordine per lei è torna. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. La sigla che fra l'altro è la musica della mia suoneria. Quando mi suona il telefono la musica che c'è è questa, che forse conoscerai. Sì, certo. Chi non la riconoscerebbe? Infatti. Sei un cuoricione. Senti qua, che ritmo. Naturalmente appuntamento con Coxo Spaziale lunedì prossimo alle 19. Città Frigico.